al fium al vento muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile leggiadro vivo, chi pianto e rito e menzognero. La donna è mobile al fium al vento muta d'accento. Non li va amore, la donna è mobile, fa il fiume alla vento.